Insomma, eccoci qua, è tornato a Termini TV, Radio Onda Rossa 87.9, in una giornata di pioggia che ci vede tutti protagonisti di un dramma interiore e esteriore che veramente ci accomuna tutti. Io ho dovuto cercare di camminare sempre dalla parte lontana dalle pozzanghere, perché si sa che le macchine non si rendono mai conto che ti possono schizzare da un momento all'altro. In questa città, dove almeno per quanto mi riguarda sono in fervida attesa non di un miracolo ma dell'apertura del ponte, ex Ponte di Ferro, altra opera del Giubileo che siamo a marzo e ancora deve aprire. Prima doveva aprire a settembre, poi doveva aprire a dicembre, poi doveva aprire a gennaio, poi ovviamente febbraio. Adesso la data sembra stabilita il 17 marzo, spero che sia un venerdì, perché il 17 venerdì sarebbe ottimo. Però insomma, la settimana scorsa sembra che il ponte fosse ancora lungi da venire, ma insomma, speriamo che quest'opera sia finita presto, perché veramente sarebbe molto, sarà, speriamo, molto utile per quel quadrante di città, visto che il Giubileo finora ci ha portato soprattutto tante piccole luminarie, nel senso imbellimenti che non cambiano la città dei romani. Per esempio si è parlato moltissimo, no, di Porta Pia. Noi in questo piccolo angolo che, in cui ci ospitano ogni tot, di Piazza Pia, pardon, ogni tot cerchiamo di mantenere un po' il registro di tutte le varie vicissitudini che riguardano questo Giubileo che ci ha veramente triturato tutti gli organi interni negli ultimi mesi e anni. Piazza Pia, che ovviamente riguarda ben poco i residenti, ma piuttosto i turisti. Tra l'altro io ci passo molto spesso e devo dire che adesso ci passo col motorino, devo dire che adesso hanno messo un semaforo subito dopo, appunto al lato della piazza Pia, che ti fa spendere 4 minuti al semaforo e poi 50 metri dopo il semaforo dopo diventa direttamente rosso. Questo per vedere meglio i turisti, per guardarli proprio gli occhi, no? Avete presente quel momento in cui tu stai pendolare andando a lavoro, andando, portando il figlio a scuola, tornando a casa, e vedi tutti i turisti allegri che si fanno le foto al gabbiano, che è lo stesso gabbiano che si è mangiato un topo 30 secondi prima, e tu così godi guardando loro e dicendo: certo che Roma da turista è un'altra cosa. E anche noi facciamo turismo, io prendo sempre il treno per Termini, e giustamente a Termini ho visto già tanti cambiamenti. Il Giubileo ovviamente ha portato le tensostrutture sarebbero i tendoni, non quelli dei Gheddafi, però insomma magari erano pure meglio, magari non resistevano tanto alla pioggia, però comunque questi tendoni che dovrebbero accogliere, che stanno accogliendo varie persone, ci sono 4 tensostrutture in tutta Roma per i senza tetto, e alcuni poi non ci vogliono andare perché non sono i posti esattamente più amichevoli che ci stanno, però insomma sempre meglio di niente. Ovviamente tutti quanti saranno smontati dopo il Giubileo, perché come la povertà era finita col governo di Di Maio, si vede che dopo il Giubileo è finita anche l'essere senza tetto. Questi sono, tra l'altro, la cosa interessante è che queste tensostrutture, insomma, per senza tetto non vanno ad aggiungere altri posti letto rispetto a quei pochi che ci sono per i senza tetto, perché per virtù di a causa di un regolamento regionale che prevedeva una certa apertura delle finestre negli spazi che ospitano persone, insomma hanno chiuso degli spazi, dei posti letto si sono persi e si sono riguadagnati, quindi andando in parità con le tensostrutture. Quindi, morale della favola, il Giubileo ha portato tende laddove c'erano prima tetti. Mi sembra un'ottima cosa, ovviamente in modo ironico, ma tra le altre cose è l'opera, insomma, che vince ampiamente il Festival delle Assurdità, è ovviamente il porto di Fiumicino. Domenica c'è stata una grande manifestazione a cui sono felicemente andato, a Isola Sacra, quindi il vecchio faro di Fiumicino. È stato molto bello vedere che c'era gente veramente da tutta Roma e non solo, anche da fuori, che è stata lì, insomma, a sentire i residenti, gli attivisti, le persone e le attiviste che hanno parlato, ed è stato molto interessante e purtroppo triste constatare che da una notte all'altra hanno costruito dei gersi, dei muretti per bloccare l'accesso al mare delle persone che stanno lì. Ovviamente tutto questo in nome della bellezza del Giubileo, insomma, è veramente stata un'operazione infame. Cioè, di notte neanche i residenti si sono resi conto, che perché sono stati molto silenziosi, hanno costruito queste barriere che di fatto ostruiscono l'accesso alla spiaggia, che ovviamente è proprietà, insomma, di tutti. E quindi si va nella direzione della privatizzazione di uno spazio che ha una storia millenaria, perché ovviamente dove finisce il Tevere, dove generazioni di romani hanno fatto il bagno, adesso si vuole fare un bel porto per una società, insomma, che si presenta da sé, Royal Caribbean, pur essendo abbastanza lontani dai Caraibi e dai reami, sembra che siano venuti qua, insomma, non proprio con un piano molto sostenibile, visto che si parla di portare navi da crociera a Fiumicino per poi spostare tutti i croceristi che arriverebbero, speriamo che non si arriverà, per portarli poi in città, a Roma, dove veramente c'è bisogno di croceristi pellegrini. E il crocerista pellegrino, tra l'altro, è una figura che ancora mi mancava, che potrebbe portare grande ricchezza a Roma. Si sa, io vengo da una città dove hanno fatto una cosa molto simile, perché hanno ad Ancona hanno messo le barriere ormai 15 anni fa, le barriere per ostruire l'accesso al porto, dicendo che era per sicurezza, per il discorso dei migranti che si nascondevano nei tir, e quindi de facto dare il porto soltanto alle aziende che gestiscono le navi, e quindi in particolare le crociere. Ovviamente Ancona non è Roma, i croceristi scendevano 6 ore quando andava bene all'ora di pranzo, piccola cittadina d'estate, stanno tutti a dormire, quindi si facevano il giro, si lamentavano che era tutto chiuso e poi andavano via. Questo è stato il grande apporto delle navi da crociera, che comunque ovviamente hanno fatto arricchire molto chi aveva, insomma, il controllo dell'autorità portuale. Quindi c'è sempre qualcuno che ci guadagna. In questo caso, di tutte le persone che ci possono guadagnare di questa roba, non c'è manco uno che è un residente di Fiumicino o di Roma, perché a meno che, insomma, chiaramente ci saranno quei politici e politicanti e dirigenti che magari qualcosina invece ci guadagnano rispetto a un'operazione così assurda, devono scavare dove sta la sabbia, devono scavare il corrispettivo di 6 volte il Colosseo di sabbia. Ovviamente la sabbia torna, ed è la ragione per cui gli antichi romani non fecero un porto a Fiumicino, ma lo fecero a Civitavecchia. Già gli antichi romani sembra che ci avessero un po' più presente cosa vuol dire avere un fondale di 25-30 metri di roccia piuttosto che uno di sabbia dove c'è il Tevere. Quindi, insomma, tra l'altro, in tutto questo, pensare che Royal Caribbean ha letto, insomma, sulla mappa Isola Sacra, questo nome che era stato dato perché c'erano comunità di cristiani nell'antichità, hanno subito pensato: ma che bello, un bel posto che si chiama Isola Sacra, chissà come se lo sono immaginato. E arrivano e si trovano il vecchio Attila, che è già uno, insomma, molto famoso lì al bilancione, che è pronto a morire sulla barricata lì. E la cosa bella è stata che in questa manifestazione veramente c'era tanta gente che è pronta a fare una lotta informata e competente, perché sono persone che hanno seguito le carte, che stanno vedendo tutto quello che riguarda quest'opera, il progetto, insomma, se è stato depositato o meno, cioè tutta una disquisizione legale che va di pari passo alla protesta, diciamo, anche di massa, perché eravamo veramente tante persone. È stato bello anche perché a un certo momento una ragazza ha scavalcato il cancello, e a marzo, insomma, bontà sua, si è fatta al bagno ed è stata seguita da un sacco di ragazzi. È stata una scena, mi sembrava Cinema Verité anni 70, è stato bellissimo, perché all'inizio questi 5-6 poliziotti che stavano lì si sono avvicinati molto lentamente per dire non dovete fare così, e alla fine ovviamente se scavalcano in 30 e loro sono 6, hanno dovuto prendere atto, si sono messi da parte a pensare al calcio, e invece i ragazzi, ragazze, addirittura bambini e cani, c'era un cane che ha scavato la sabbia sotto per passare sotto il muro, insomma sto muro lo vedo male. Fortunatamente si è parlato, tra l'altro, anche del fatto che sarà appunto una lotta abbastanza dura, e che potrebbe essere una piattaforma di incontro per tante realtà, no? Come è stato evocato, per esempio, in OTAV, è stata una cosa che ha cambiato la vita a un sacco di persone in valle. Io ho pure studiato a Torino e mi ricordo le manifestazioni del 2002, insomma, sono alla fine sono veramente generazioni che si porta avanti questa battaglia, no? E quindi Fiumicino, penso che quest'opera in nome del Giubileo, che ovviamente non sarà fatta entro questo Giubileo, ma attenzione, perché c'è un altro Giubileo già tra poco, perché c'è il Giubileo del 2033, come se non bastasse questo qua e quello del 2016 appena passato. Sto Giubileo che doveva essere ogni 100 anni, il primo Giubileo del 1300, diciamo cristiano, all'inizio era ogni 100 anni, e ogni 100 anni appunto si aprivano le prigioni, si liberavano tutti i prigionieri, si finiva tutte le requisizioni, le confische delle terre, insomma era un tana libera tutti il Giubileo. Ora è un tana libera tutti per gli appetiti aziendali di chi sa come fare questi grandi bandi, appelli. Ovviamente in tutto questo il comune di Roma, nella figura del sindaco, essendo quello che gestisce, diciamo, gli appalti del Giubileo, ha da dire qualcosa, ha cercato di non dirlo finora. Ovviamente c'è anche il discorso del comune di Fiumicino, e c'è anche Civitavecchia, che ovviamente rosica, giustamente, perché hanno già un porto enorme per le crociere, e loro dovrebbero essere tirati fuori, quindi perderanno molto traffico. Quindi un progetto scellerato, questo del porto di Fiumicino, che rientrando a pieno titolo nel Giubileo, penso che vinca la palma del progetto più assurdo, insomma, per noi persone normali, ma si vede che Royal Caribbean invece ha qualcosa di più interessante che non pensare alle necessità dei residenti, insomma. Quindi detto questo, vi volevo mandare un altro pezzetto di musica, e poi cerco un pezzo che vi volevo far sentire proprio sul Fiumicino, sul porto. I've been staying up while you're sleeping in my bed. I don't hate you, babe. It's worse than that, 'cause you hurt me and I don't react. I've been building up this thing for months. Oh, resentment. Say you know me like you know yourself, but there's a part of you that you can't help, and you say you can't do it, just do it for my sake. Ooh, it's a shame knowing we could be good, that you could treat me better if you really wanted to, and if you can't do it for my sake, do it for our sake. I don't hate you, babe, it's worse than that, 'cause you hurt me. Mazza, che musichetta allegra, proprio western. Invece vi voglio far sentire un pezzo di una trasmissione che c'è stato, che parlava di questo. Vediamo se si sente. Croceristico non si può fare. Innanzitutto è una concessione novantennale. Noi sappiamo bene che a Genova si sono posti problemi perché è stata data una concessione per 30 anni. Uno scandalo infinito. Hanno riempito i giornali. Qui parliamo di 90 anni. Ma questa cosa, se ci si pensa, non ha alcun senso, perché c'è un porto a 50 km da qui, che è Civitavecchia, tutto attrezzato per fare queste operazioni, e c'è anche un collegamento ferroviario. Porto Civitavecchia è il secondo porto croceristico d'Europa, dopo Barcellona. Perché è importante Civitavecchia? Perché c'è Roma. Ora, che senso ha fare un secondo porto croceristico per Roma? Non ha senso comune. Nelle infrastrutture non si fanno mai le duplicazioni. Se io ho un'autostrada, di fianco ne costruisco un'altra, non lo farei mai. Due porti per navi da crociera a... che hanno fatto nascere delle bambine e dei bambini. Punto bianco, ti svegli, guardi il cellulare e vedi che il tuo lavoro può essere messo a rischio. Stai sbagliando un colpo. Ad oggi l'economia cittadina è basata solo esclusivamente nel porto. Non si riesce a capire sinceramente da dove proviene questo progetto, perché ogni volta che noi solleviamo il problema, qual è il politico di turno? Chiunque, ci dicono, a noi hanno detto di non impicciarci. È la cosa che ci mette più paura. Porto commerciale all'interno di una marina, ma qui mi fermo perché qui è stato, come dire, mi è stato indicato da superiori livelli amministrativi di fermarmi qui perché non è un mio problema, così mi è stato detto. Chiaro che l'inserimento all'interno del decreto Giubileo ha messo una freccia a sinistra, ha messo un'accelerazione pazzesca. Lo ribadisco, mi è stato chiaramente fatto capire che non devo entrare nella competizione, non devo discutere di questa cosa finché non dovesse arrivare sul mio tavolo. La procedura prevede 30 giorni di tempo per il pubblico per presentare le osservazioni. Noi abbiamo avuto 15 giorni, quindi in 15 giorni ci siamo letti 1500 pagine di progetto e abbiamo presentato una serie di osservazioni sulle tante criticità di questo progetto dal punto di vista ambientale, ma anche dell'impatto sull'entroterra. Per fare quell'opera servono due pareri fondamentali: la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione per i dragaggi. Ma in questa occasione il Consiglio Comunale non si è mai espresso e né è mai stato chiamato ad esprimersi. Abbiamo chiesto conferma all'allora sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. La sua maggioranza era divisa. L'80% dice di sì. Quello era. E quindi la procedura richiesta era una procedura solo e soltanto finalizzata a dire: guarda, qui c'è questa infrastruttura da fare. È un posto inserito nelle opere del Giubileo, c'è un commissario, c'è un governo, eccetera, eccetera. L'hanno messo loro, vuol dire che la proposta non era proprio scema. Nonostante tra l'altro il cambio di colore, mi pare aver capito che sia Montino che l'attuale sindaco Baccini siano abbastanza contenti di questa operazione. Come mi è stato detto, lo dico per la quarta volta, di non occuparmene perché non è sul mio tavolo. E questo insomma è un estratto di una trasmissione che sulla Rai, tra l'altro, è l'unica che ne ha parlato approfonditamente il 22 novembre, dove appunto ci sono varie voci. Quello che sentivate che diceva appunto che non era, che gli era stato chiesto di non dire niente rispetto a quest'opera, è il presidente dell'autorità portuale, quindi non proprio, diciamo, una persona che non ha interessi in campo. E quindi è molto interessante sapere come sono riusciti a pestare i piedi a tutti, dai residenti ai piccoli politici, diciamo, locali, per interesse di una società straniera, Royal Caribbean, che effettivamente, insomma, non è molto presente nell'immaginario romano come una realtà romana, no? È veramente incredibile che questo rientri nel progetto del Giubileo. Detto questo, ovviamente i problemi del Giubileo non finiscono qua. Tutti sanno, la prossima volta ve lo faremo sentire un po' di voci rispetto alle proteste che ci sono state sul caro affitti, che ovviamente è la piaga più grossa rispetto al Giubileo. Caro affitti che porta, insomma, a 900-1000 euro a stanza per un affitto. Io c'ho ogni giorno qualcuno che... C'è gente addirittura che non viene più a Roma a studiare, stranieri, perché sanno che non possono affittare, perché soprattutto gli stranieri, soprattutto certe persone di origine, diciamo, con nomi arabi o africani, molto anche asiatici, diciamo asiatici di alcuni posti, non è praticamente impossibile affittare legalmente a Roma in questo momento. Detto questo, è impossibile affittare a Roma per le persone straniere, è impossibile, è molto difficile anche per gli italiani, pensiamo agli studenti quanto vengono sfruttati. Detto questo, ci sono opere di nuovi palazzi, nuovi palazzinari di oggi, per esempio l'opera che stanno facendo all'ex Fiera di Roma, che prevedono questa specie di bosco verticale alla milanese, e non so se appunto ce la dovremo accollare pure il bosco verticale con i suoi aspiranti influencer che ci vivono dentro, e questo è dove sta andando la città di Roma, e purtroppo non è che si sia iniziato ieri. Io oggi vedevo un documentario degli anni 60 dove appunto c'erano altri problemi, e c'erano, diciamo, però almeno la speranza, insomma, che la politica potesse almeno rendere conto di quello che stava facendo. In questo momento la politica è talmente assente, se non come passacarte degli interessi aziendali di multinazionali, che d'altronde lo vediamo pure dal punto di vista mondiale, che l'unica forma di resistenza è appunto il boicottaggio più totale. Il signor Musk ne sa qualcosa, visto che la sua azienda ha perso un bel po' di soldini, e ieri tra l'altro stava un po' in lacrime, stava per mettersi a piangere dicendo che era un po' difficile un'intervista a Fox News, agli amichetti di Fox News. Ma anche noi oggi abbiamo Fox News a manetta in Italia, abbiamo trasmissioni da tutte le parti che ci fanno il lavaggio del cervello, quindi io adesso me ne torno verso casa, ma so che Radio Onda Rossa resiste in questa voce conflittuale. Tra l'altro questa domenica sicuramente molti e molti di voi lo sanno già, ci sarà una cosa anche davanti a CPR, dove bisogna esserci, perché è importante mantenere il conflitto, perché loro pensano di poter far zittire tutti senza colpo ferire. In questo caso una lotta che va dai residenti agli attivisti, addirittura a chi lavora nel porto di Civitavecchia, che comunque anche loro hanno un interesse appunto di non perdere il proprio lavoro, mi sembra veramente una prospettiva molto allettante per noi che appunto siamo da questa parte della barricata, e molto preoccupante per loro, perché comunque non sarà facile dover gestire tutte queste proteste anche molto locali, e quindi il boicottaggio su questo, diciamo, questo muro, questo jersey che hanno fatto davanti alla spiaggia, vi invito ad andarlo a vedere all'isola Sacra, a Fiumicino, è veramente un obbrobrio, e penso che non durerà tanto, o almeno me lo auguro. Detto questo, vi saluto, ci sentiamo la prossima volta, sempre forza Radio Onda Rossa, forza, io non sono romano, quindi mi tiro fuori dalle polemiche calcistiche, la mia squadra sta in Serie D, quindi lasciamo perdere, non ho nulla da insegnare a nessuno, se no che bisogna sempre tifare anche quando la tua squadra sta andando male. Dai, alla prossima, ciao. I don't hate you, babe, it's worse than that, 'cause you hurt me and I'm more than sad. I've been building up this thing for months. Oh, allora eccoci di nuovo qui ai microfoni dopo questo interessantissimo intervento di Termini TV, e io intanto mi scuso perché insomma c'è stato questo buco di musica, ma derivava dal fatto che non mi ricordavo una password, va bene, e quindi non abbiamo potuto mandare i file che aveva preparato Francesco, però con questo concludiamo comunque la trasmissione, sperando che in quel buco coperto dalla musica non abbiamo perso ascolto, e io concludo qui, se c'è tutto c'è la salute, a cura del coordinamento regionale sanità, vi do l'appuntamento per mercoledì prossimo, dove avremo ancora Termini TV e parleremo ancora di giubileo e di tutto quello che comporta e che stiamo vivendo. Soprattutto io vedo veramente dei bed and breakfast in posti assolutamente improbabili ormai in tutta Roma, e con tutte le ricadute che Francesco prima ha sapientemente descritto. Quindi l'appuntamento mercoledì prossimo alle 16, e potrete, credo entro stasera, riascoltare se volete o ascoltare ex novo la trasmissione sui podcast di Radio Onda Rossa 87.9, che è quella che mi permette adesso di parlare e di trasmettere, e quindi è importante che continuate a contribuire alla sua vita partecipando alle iniziative che trovate sul sito www.ondarossa.info, dove trovate anche tutte le modalità per sottoscrivere per la radio. Con questo vi auguro una buona serata, e me l'auguro anche a me.